Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 è il numero, come sempre, per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, se volete intervenire. I temi dei quali parleremo oggi, partiremo dagli annunci che sono arrivati ieri dal ministro del lavoro Giuliano Poletti, che dal meeting di Comunione e Liberazione a Rimini ha chiarito quali dovrebbero essere i contorni di una manovra che si prospetta, la manovra per il 2018, che si prospetta una manovra concentrata almeno parzialmente sulla volontà di dare più lavoro ai giovani, di offrire più opportunità da questo punto di vista. Lo avevamo già accennato nelle settimane scorse, sembrava che appunto la direzione dovesse essere questa. Il ministro ha chiarito un po' quelle che dovrebbero essere le dimensioni dell'intervento. Si parla di 2 miliardi di euro per la decontribuzione per chi assume gli under 30 e un obiettivo, quello fornito dal ministro del lavoro Giuliano Poletti e dal ministro del welfare, per essere più precisi Giuliano Poletti, un obiettivo di 300.000 posti di lavoro a regime, appunto per gli under 30, con una norma che imporrebbe l'illicenziabilità almeno nei primi 6 mesi di questo contratto con decontribuzione. Ci sono molti punti critici in questo piano. Innanzitutto, nella sua dimensione, come tra l'altro nota anche il nostro direttore del Sole 24 Ore, Guido Gentili, in un editoriale questa mattina appunto sul Quotidiano, a partire dalla dimensione dell'intervento, passando per la previsione un po' troppo ottimistica per quello che era stato presentato o pensato come una sorta di piano Marshall per l'occupazione giovanile, rimane oggettivamente molto poco. Sul Quotidiano di oggi, tra l'altro, trovate anche qualche conto fatto da Marco Rogari e Claudio Tucci proprio su questo tema. Ne parleremo con un economista per capire effettivamente che forza può avere un piano di questo tipo. Ci occuperemo di lavoro, si diceva, e parleremo anche in un tema solo parzialmente collegato di Gran Bretagna. Oggi sono stati diffusi dei dati interessanti, perché sono i dati che riguardano l'immigrazione. Come sapete, il voto per la Brexit era in gran parte dovuto, o almeno in una discreta parte dovuto, all'eccesso di immigrazione che i cittadini britannici hanno sentito di dover sopportare, o almeno questo è quello che hanno ritenuto, e quindi hanno votato a favore della Brexit proprio perché volevano meno immigrati dall'Unione Europea, dal resto dell'Unione Europea. Ebbene, i dati segnalano che, pur non essendoci ancora effettivamente la Brexit, pur essendo la Gran Bretagna ancora nel pieno dell'Unione Europea, il calo dell'immigrazione c'è stato. Il dato netto dei primi 3 mesi dell'anno è di 246.000 arrivi, a fronte dei 327.000 dello stesso periodo dell'anno prima. È un elemento che darà soddisfazione a chi ritiene che la Brexit possa essere stata una buona scelta. Dall'altra parte però c'è chi già si lamenta e dice, come per esempio gli albergatori, chi lavora nelle costruzioni e via dicendo, che dice: guardate, noi ci ritroviamo in questo momento senza lavoratori, senza i lavoratori che ci servono, da una parte. Dall'altra parte preoccupa le università britanniche, perché il calo degli arrivi di studenti con i dati di marzo è stato del 16%, e considerate che le università britanniche ovviamente si basano anche sulle rette che arrivano dagli studenti stranieri e in particolare dagli studenti europei, senza contare il fatto che la Gran Bretagna è rimasta storicamente e per anni un polo di attrazione di quell'immigrazione intellettuale che serve ad ogni paese, ossia l'immigrazione di persone con un alto titolo di studio, cioè la gente che si forma tornava in Gran Bretagna spesso rimaneva anche in Gran Bretagna a lavorare, quantomeno per un certo periodo di tempo, e questa è chiaramente l'infa vitale che la Gran Bretagna perde. Altri dati che arrivano dalla Gran Bretagna sono quelli sui consumi, consumi che sono negativi anche a causa dell'indebolimento della sterlina. Gli ultimi dati sul prodotto interno lordo indicavano una crescita dello 0,3%, e gli uffici di statistica che se ne occupano hanno, quelli ufficiali ovviamente, hanno finalmente scomposto questo dato e emerge appunto che c'è più spesa pubblica e quindi il PIL cresce per quello, ma i consumi sono scesi dello 0,1%, proprio appunto a causa probabilmente dell'effetto che c'è stato per quanto riguarda la sterlina, oltre che evidentemente un po' di sfiducia e di grande incertezza per quello che succederà per quanto riguarda questa trattativa sulla Brexit. La vicenda Abertis. Beh, in queste settimane abbiamo parlato moltissimo del tema degli investimenti stranieri nel nostro paese e soprattutto degli investimenti che arrivano anche da altri paesi europei. Siamo ancora qua ad attendere le decisioni che prenderà il governo per quanto riguarda la vicenda TIM Telecom e il controllo da parte di Vivendi, e quindi siamo all'interno appunto dell'Europa. La vicenda Abertis che cosa vede? Vede un'OPA lanciata da Autostrade sul gestore autostradale spagnolo, e le notizie che circolano in queste ore sono per il momento solamente indiscrezioni giornalistiche, ma che sembrano confermare voci che erano già girate nelle settimane scorse, l'idea che gli spagnoli di ACS sarebbero pronti in 2 o 3 settimane a presentare una controopa su Abertis, contrastando le aspirazioni di Atlantia. È il gruppo ACS è quello di Florentino Perez, che è anche il presidente del Real Madrid, e qua ci sarebbe una pressione abbastanza forte da parte del governo spagnolo perché alcuni fondi di investimento concedano i finanziamenti necessari ad ACS per conquistare Abertis, e questo appunto, come si diceva, per quanto riguarda le autostrade. Infine un altro tema, torneremo sui temi bancari per una questione, insomma tutti i temi bancari riguardano un po' tutti, però questo nella fattispecie è un tema che ha a che fare con i nostri mutui, i nostri prestiti, i nostri finanziamenti, perché si sta studiando una revisione del tasso Euribor al quale sono indicizzati gran parte dei mutui e prestiti che vengono concessi, e quindi si sta studiando questa revisione, si sta studiando come possa avvenire, come possa essere fatta. È un tema che affronteremo. Per quanto riguarda i mercati, la giornata di oggi è positiva, più 0,8% per il FTSE MIB, più 0,7% per il FTSE All Share, con Francoforte che guadagna lo 0,3%, Parigi lo 0,2% e Londra lo 0,67%. L'America vede lo Standard & Poor's 500 in lieve guadagno dello 0,06% e il Dow Jones dello 0,13%. A dominare il listino anche oggi è Fiat Chrysler, un più 4% dopo quello che vi abbiamo raccontato ieri, ossia l'ipotesi che Marchionne stesse studiando uno scorporo sia di Maserati e Alfa Romeo, quindi dei marchi di lusso, sia della parte componentistica, quindi Magnati Marelli, Texid e poi anche i robot industriali di Comau. Si sta facendo strada in queste ore più concreta l'ipotesi che almeno l'operazione riguardi Magneti Marelli. Fatto sta che il titolo Fiat guadagna il 3,8% a 12,6 euro, e per rimanere nel settore dell'auto fa bene oggi anche Brembo, che guadagna il 3,5% a 13,04 euro, bene Enel più 2,41, Luxottica più 1,81, Unicredit più 1,6, ricordati un punto e mezzo percentuale, in fondo all'esino Saipem che c'è del 2,6, CNH l'1,5, Azimut l'1,10, Mediaset lo 0,96%, Ferrari che perde lo 0,92%, Jux Net-a-Porter lo 0,86%. Sui massimi ci siamo scordati di dirlo, anche la controllante di Fiat Chrysler Exor, che guadagna l'1,5% a 54 euro per azione. Le notizie in breve di oggi. Oh, E a chi dice che qua facciamo demagogia perché diciamo cose non vere in Gran Bretagna, la Gran Bretagna è un paese liberale, in Gran Bretagna è un paese liberale, ha vinto la Brexit contro le politiche monetaria ed economica fallimentare dell'Unione Europea, voglio ricordare che la Gran Bretagna ha sempre mantenuto la sterlina e la sua banca centrale, e quindi con la politica monetaria della Banca Centrale Europea non ha nulla a che fare. E che, va detto, la politica economica, gli inglesi se la sono sostanzialmente sempre fatta da soli, eh. Alcuni considerano l'Unione Europea per l'Italia una gabbia, ma insomma, di certo per la Gran Bretagna l'Unione Europea non lo è mai stata, o non lo è mai stata particolarmente. Lo sapete benissimo del resto, no? Si sono sempre fatti un po' più i fatti loro rispetto a quanto non abbiamo fatto noi nel continente. Sì, l'euro, ha ragione l'ascoltatore a ricordarmelo, a 1,18 sul dollaro. E a 0,92 sulla sterlina. L'oro in calo dello 0,3% a 1.285 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, ha chiaramente risentito delle notizie arrivate dall'OPEC, la quale ha detto che il taglio alla produzione potrebbe essere esteso oltre il primo trimestre del 2018 e tutte le opzioni restano aperte per riequilibrare il mercato del greggio a beneficio di tutti. Dunque abbiamo il Brent, quello del Mare del Nord, in calo dello 0,61% a 52,2 dollari al barile, il WTI con consegna d'ottobre in calo dell'1,09% a 47,8 dollari al barile. Gli occhi non solo dei mercati, ma un po' di tutto il mondo economico sono in queste ore puntati su Jackson Hole. Jackson Hole, che è il luogo del tradizionale appuntamento dei banchieri centrali. Parleranno Mario Draghi e Janet Yellen. È difficile che Draghi dica cose radicalmente diverse da quelle che abbiamo sentito ieri, ossia che il quantitative easing sta funzionando, ci sono delle analisi empiriche che lo dimostrano. Di certo uno dei temi centrali sarà il mandato di Janet Yellen, la presidente della Fed. Perché? Perché scade a febbraio e non è ancora chiaro se Donald Trump voglia rinnovare oppure no. Trump l'ha più volte criticata durante la campagna elettorale, anche se ha ammorbidito i toni di recente. Nella sua ultima intervista al Wall Street Journal alla fine di luglio, Trump ha precisato che in corsa c'è la stessa Yellen, ma anche Gary Cohn, che è il consigliere economico della Casa Bianca ed ex presidente di Goldman Sachs. Ed è uno dei motivi, secondo alcune indiscrezioni, che avrebbe convinto Cohn a restare nell'amministrazione durante l'ultimo scandalo seguito alle parole di Trump sugli scontri di Charlottesville. E ci sono anche altri papabili, diciamo che è un po' difficile fare i nomi adesso, vista anche una certa imprevedibilità del presidente americano. L'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, EASA, ha lanciato un allarme su un importante aereo, l'Airbus A340-941. Airbus ha verificato che in una pompa idraulica vicino al serbatoio si potrebbe verificare un surriscaldamento e in casi estremi questo potrebbe provocare l'esplosione della miscela aria-carburante nel serbatoio, mica una cosa da poco. L'Agenzia per la Sicurezza, secondo quanto scrive Die Welt, prescrive l'uso di un software per rimediare al rischio. Lufthansa, stando ai media tedeschi, ha provveduto ad applicare la misura di sicurezza sui 4 A350 della sua flotta la scorsa notte, informando tecnici ed equipaggi. I dati britannici, come si diceva, la seconda stima dell'ufficio inglese di statistica ha confermato la stima preliminare di una crescita del PIL dello 0,3% nel secondo trimestre del 2017. L'ufficio di statistica che ha però diffuso indicazioni aggiuntive appunto sulle componenti. Come si diceva, i consumi crescono ma meno delle attese degli analisti. Prima ho detto forse che sono scesi... cresciuti però appena dello 0,1% contro una stima dello 0,3%. La sterlina debole sta colpendo i bilanci familiari, crescita sostenuta da spesa pubblica e costruzioni, piatti gli investimenti delle aziende. Su Fiat Chrysler, della quale accennavamo poco fa, si mantiene puntato anche il faro della Consob. I monitoraggi sono stati avviati 10 giorni fa. Dal 14 agosto il titolo è cresciuto del 21%. Dell'ipotesi di contropa su Abertis abbiamo parlato poco fa. L'operazione supererebbe i 17 miliardi di euro, di cui oltre ai circa 15 miliardi per ripianare il debito di Abertis. Infine un brevissimo accenno alla vicenda del Comune di Roma per pura questione economica, se no poi arrivano i soliti SMS, gli ascoltatori affezionati dei 5 Stelle che ci dicono: ah, ce l'avete con la Raggi? No, non ce l'abbiamo con la Raggi. Vi riferiamo le parole di Andrea Mazzillo, che è l'assessore al bilancio uscente, è stato sostituito l'assessore al bilancio del Comune di Roma. Arriva Lemmetti da Livorno, che era l'assessore al bilancio di Livorno, e se ne va Andrea Mazzillo. Qual è il tema qua? Il tema è ancora una volta la mitica ATAC. E qual è il problema? Che per Lemmetti sarà difficile agire come ha agito a Livorno per l'azienda municipalizzata dei rifiuti. Perché? Perché ha mandato al commissariamento questa azienda, il che può essere anche una misura giusta e una misura drastica in casi di questo genere. Dall'altra parte però succede che nella pancia dell'ATAC ci sono 429 milioni di crediti verso il Comune di Roma. Allora, se tu commissari l'azienda, rischi che questi crediti al Comune di Roma non li paghi più. E al Comune di Roma viene a mancare mezzo miliardo di euro in bilancio, e quindi la cosa potrebbe portare anche al commissariamento del Comune di Roma. Quindi lo snodo è questo, ve lo segnalo perché poi arrivassero notizie in questo senso, in questa direzione, nei giorni prossimi lo sapete. È una questione tecnica, spero di essere rimasto sul tecnico. 349-238-6666 per i vostri SMS e per i messaggi su WhatsApp. E veniamo al primo tema di oggi, che sono i giovani e il lavoro. Mi chiede un ascoltatore esattamente qual è il modello di Airbus che, secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, potrebbe essere a rischio di esplosione se non fai un aggiornamento di software. Non so se è interessato perché è in possesso del modello, però dice non si è capito, A340 o A350, è A340-941, quindi se siete in possesso di un Airbus A340-941 aggiornate il software, perché sennò potrebbe esplodere. E dato che poi lo sapevo che sarebbero arrivati gli ascoltatori del Movimento 5 Stelle, perché non parlate mai degli assessori cambiati a Milano? Perché la Raggi ha cambiato 4 assessori al bilancio in un anno, e il bilancio di Roma è un disastro, ma non è un disastro per lei, è un disastro a causa delle amministrazioni precedenti, e bisognerebbe avere una guida un po' più salda del bilancio, dai, diciamocelo. Basta parlare di politica, eccetto che per la manovra in arrivo sulla quale si sta ragionando tradizionalmente d'estate vengono lanciati messaggi contro messaggi, iniziano trattative, inizierà anche un assalto alla diligenza come sempre. E però vogliamo parlare di giovani e lavoro col professor Pietro Garibaldi, economista del lavoro, direttore del Collegio Carlo Alberto di Torino. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci qua. Allora, il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha confermato ieri che il governo sta lavorando una decontribuzione per assumere giovani, accompagnate da norme antilicenziamento, dice, contro i comportamenti furbeschi. Gli sgravi dovrebbero valere circa 2 miliardi di euro, con un tetto di età ancora da definire, tra i 29 e i 32 anni, vincolo antilicenziamento per 6 mesi. L'impressione è che, professor Garibaldi, e lo chiedo a lei, è che se si vuole dare una scossa, forse la dimensione è un po' limitata. Beh, la via degli sgravi è la via che in qualche modo ha tracciato il governo Renzi con grande intensità, con uno sgravio che ricordiamo simile non solo ai giovani, per tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato per il 2015-2016. È una misura che ha fatto rispondere in maniera massiccia la domanda di lavoro, tuttavia poi è rimasta temporanea, ossia quando è finito lo sgravio abbiamo visto che il lavoro a termine ha ripreso a crescere. Ora con questa misura, che 2 miliardi solo per i giovani non sono pochissimi, tuttavia non è chiaro quanto dureranno. Se durano solo un anno rischia che sia una misura troppo temporanea e quindi non sia percepita come strutturale. E secondo, si ha un po' l'impressione che il governo sia intrappolato con questa cosa dei bonus e sgravi, ci fosse un po' una mancanza di idee e parte di coraggio per fare misure più strutturali. Sì, qualcosa di più strutturale. Lei a cosa pensa, professore? Che cosa le viene in mente? Io a me sembra molto evidente che la domanda di lavoro ovviamente ha risposto al costo del lavoro, quindi l'abbiamo visto con le riduzioni del 2016, il lavoro ha risposto in maniera, ma le imprese hanno assunto centinaia e centinaia di migliaia di nuovi posti con questi sgravi, quindi bisognerebbe fare in modo che questi sgravi siano permanenti. Tuttavia costano, cioè non possiamo immaginare che questi sgravi non costino. Ovviamente bisogna avere il coraggio di, probabilmente, qua dico una cosa non popolare, visto che le risorse sono poche, probabilmente la cosa più scellerata in questa direzione è stata quella di togliere la tassa sull'abitazione, perché a quel punto quelle risorse lì, che in Italia sono basse, sarebbero state potute destinare per una defiscalizzazione strutturale, permanente, per tutti noi, posti di lavoro, fondamentale per il mercato della lavoro italiano. Sì, da dire che nelle ipotesi che sta facendo in questo momento il governo si tratta di una decontribuzione di 1 miliardo il primo anno e 2,5 miliardi a regime, e con una decontribuzione che sarebbe la metà di quella prevista inizialmente, di quella che lei ricordava fatta dal governo Renzi, appunto, come dire, oltre ad essere un intervento, come diceva lei, che rischia di essere un po' un intervento che manca di fantasia, per così dire, se posso esprimermi in questo modo, dall'altra parte anche la dimensione ristretta potrebbe non favorire tantissimo un'adesione di questo tipo, un'adesione forte come è stata con l'incentivo precedente, no? Beh, è solo per i giovani, però questo, quindi è vero che l'ammontare assoluto sembra modesto rispetto a circa 6 o 7 mi sembra costò quella precedente per anno, questa qui è soltanto per i giovani da 25 a 29 o forse 32 anni, quindi forse per questa fascia di età non è così poco. Il rischio è che sia magari una cosa che dura solo un anno, c'è questa sensazione qui che poi tra un anno siamo di nuovo qui a parlarne. Per i giovani c'è la necessità, la sensazione di fare qualcosa per i giovani che sono stati un po' dimenticati in questi anni, in parte anche penalizzati indirettamente dalla riforma delle pensioni. Forse nel mezzo della recessione sappiamo che la decisione giustissima di aumentare età pensionabile con la riforma Monti-Fornero, un pochino ovviamente le imprese hanno finito per ridurre le assunzioni di giovani. Quindi si è fatto poco per i giovani, Garanzia Giovani ha creato tante speranze ma pochi posti di lavoro, sappiamo che i posti di lavoro che stanno crescendo sono sempre per gli over 50, quindi era politicamente bisognava fare qualcosa per i giovani. Certo che il rischio è che sia una misura un po' spot temporanea, c'è. La ringrazio, grazie al professor Garibaldi, Pietro Garibaldi, economista del lavoro, direttore del Collegio Carlo Alberto di Torino, per essere stato con noi e averci dato la sua opinione, tante ne sentiremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane su questo tema, anche quando entreremo un po' più, se vogliamo, nel concreto della manovra. Prendiamoci una pausa adesso e chiedo perdono perché ha ragione l'ascoltatore che mi scrive che gli assessori al bilancio di Roma sono stati 3 e non 4, contare anche De Dominici si è sbagliato perché è durato, non so, un giorno, due giorni, nemmeno me lo ricordo, insomma, è corretto, sono stati 3 gli assessori al bilancio di Roma. Ci fermiamo, una pausa e poi parliamo di economia britannica. Fiera del Levante, riscaldamento a legna e pellet, pftecnologie.it. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp. Rifuggirei dalla semplificazione dell'ascoltatore Claudio da Torino che dice se gli italiani facessero i lavori svolti dagli immigrati non ci sarebbero disoccupati e immigrati. Ma insomma, mi sembra un'interpretazione semplicistica e semplificatoria della realtà, oltre che è stato dimostrato spesso negli anni, spesso sbagliata. Tra poco ci arriveremo a questo, perché parleremo invece di quello che succede in Gran Bretagna, dove oggi sono arrivati dati sul calo dell'immigrazione da parte dell'Unione Europea, dai paesi dell'Unione Europea, compresi i paesi dell'Est. E Gran Bretagna che si trova già però con i responsabili del settore dell'accoglienza, genericamente intesa, quindi gli hotel e via dicendo, del settore delle costruzioni, che lanciano messaggi preoccupati perché in realtà gli inglesi magari quei lavori non vogliono andare a farli, molto semplicemente, non sono interessati. E dall'altra parte anche le università che dicono potremmo perdere key staff chiave, cioè persone chiave all'interno dei nostri atenei, persone che elevano il livello scientifico delle università. Università che stanno registrando tra l'altro un deflusso di studenti dall'Unione Europea, anche questo sarà un problema economico per le università stesse. Comunque ci arriveremo tra un attimo, intanto torniamo su vicende che hanno a che fare con... consentitemi di allargare un po' il discorso di come reagiamo agli investimenti esteri nei nostri paesi, noi in Europa, anche dall'interno dell'Europa stessa. Nella fattispecie gli acquirenti siamo noi, per così dire, è Atlantia, ossia Autostrade, e gli acquistati sarebbero gli spagnoli di Abertis. E però si starebbe preparando una controopa spagnola con ampio sostegno da parte dello stesso governo spagnolo. Laura Galvani, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera Laura. Buonasera a voi. È così, no? Ma sì, queste sono le indiscrezioni che trapelano e arrivano dalla Spagna. In realtà ACS, che sarebbe il gruppo spagnolo di Florentino Perez, che dovrebbe lanciare Ocontropa, già il 20 luglio scorso aveva confermato di avere allo studio un'offerta alternativa rispetto a quella presentata da Atlantia. Ora è passato più di un mese e non si erano più avute notizie, se non rumor sporadici rispetto al fatto che i grandi fondi di investimento in realtà faticavano ad appoggiare questa eventuale controfferta. Di oggi però l'indiscrezione secondo cui ACS in realtà avrebbe trovato i fondi e sarebbe pronta a lanciare un'offerta a 17 euro per azione, ossia 5 centesimi in più rispetto a quelli messi sul piatto da Atlantia. Tutto ruota evidentemente attorno alla capacità finanziaria reale di ACS. Si tratta di un'operazione a 17 euro, pari più o meno a 17 miliardi di euro complessivi. ACS capitalizza in borsa 10 miliardi, quindi vorrebbe dire andare ad acquistare una società che non è quasi il doppio, ma più o meno rispetto alle sue dimensioni, e quindi certamente la strada è in salita. Nei giorni scorsi il presidente di Atlantia, Cerchiai, aveva detto che... Tra l'altro, scusami Laura, ti interrompo solo per dirti, è caricata di un discreto debito Abertis, no? Caricata di un discreto debito, si parla tra i 14 e i 15 miliardi, quello dipende esclusivamente da quando verrà portata a compimento l'operazione. Quindi sicuramente nel momento stesso in cui complessivamente sono 17 miliardi cash più il debito, quindi andiamo ben oltre i 30 miliardi per una società che ne capitalizza 10, che è nel settore delle costruzioni e quindi in un settore anche complicato e sicuramente ciclico. E questo potrebbe essere un bel problema, quindi sarebbe un'acquisizione che avverrebbe a debito? Probabilmente sì, sicuramente un'acquisizione a debito, sicuramente se realmente ACS deciderà di fare questa offerta dovrà fare un aumento di capitale, perché non può sostenere esclusivamente con i finanziamenti un'operazione di questo tipo e evidentemente immagino abbia trovato anche un partner che la possa sostenere. Da sola sarebbe particolarmente complicato, salvo poi che non decida di fare una sorta di spezzatino andando a cedere alcuni asset che ipoteticamente potevano essere ceduti anche da Atlantia se dovesse portare poi a compimento la sua offerta. C'è anche lo snodo governativo e lo snodo politico a questo punto, sì, che mi sembra, Laura, si componga di due cose: da una parte le pressioni proprio perché ACS lanci questa offerta e dall'altra parte una possibilità di veto che ha il governo su questa operazione, no? Allora, la possibilità di veto in realtà è legata principalmente al fatto che Abertis possiede alcuni asset strategici, tra cui Hispasat e Celnex, ma anche legata al fatto che ci sono alcune concessioni in scadenza, quindi il veto lo potrebbe esercitare non rinnovando le concessioni in scadenza piuttosto che chiedendo garanzie specifiche su questi due asset, Hispasat principalmente. Invece dal punto di vista politico hai ragione tu, il governo di Madrid, anche se non ufficialmente, perché ufficialmente non si è mai espresso e si è sempre posto, come dire, in una condizione di accettiamo il mercato e accettiamo le sfide del mercato, però informalmente pare che stia facendo parecchie pressioni su Florentino Perez perché riesca alla fine a predisporre l'offerta e a controattaccare rispetto alla mossa di Atlantia. Sì, sempre secondo queste fonti di stampa spagnola, addirittura lo stesso governo spagnolo starebbe vagliando una serie di fondi di investimento che possano sostenere l'operazione di ACS. Ti sembra probabile che in caso di una controfferta di ACS Atlantia insista e lanci a sua volta una controopa, cioè alzi il prezzo? L'amministratore delegato Castellucci ha sempre detto che non sarebbe mai entrato in una guerra di prezzi. Ora molto evidentemente dipenderà da quale sarà l'offerta reale da ACS. Come detto, Atlantia ha offerto 16,5 euro, ACS ne offre 17. Atlantia ha fatto un'offerta cash e in parte invece carta, e la parte carta peraltro dà una valutazione molto superiore di Abertis, perché con il concambio valorizza istanti i prezzi attuali di Atlantia, valorizza Abertis attorno ai 18,8 euro, quindi potrebbe magari rivedere la componente della propria offerta, la parte carta, la parte cash, e magari provare ad avvicinarsi. Di sicuro però Castellucci ha sempre detto che non si sarebbe dissanguato per fare questa operazione, che se si fossero presentate le condizioni finanziarie adeguate l'avrebbe fatta, ma altrimenti no. Ti ringrazio, grazie a grazie Laura a Galvagni del Sole 24 Ore per questo aggiornamento sulla vicenda Abertis, Atlantia e ACS. Come sentite, insomma, le cose sembrano snodarsi sempre più o meno sullo stesso fronte, insomma, no? Da una parte abbiamo la vicenda Vivendi che esercita il controllo su Telecom Italia e TIM, e la volontà del governo di vagliare quantomeno se ci sia la possibilità di esercitare il Golden Power, ossia la possibilità di bloccare un'operazione o di limitare il controllo nel caso nel quale appunto si verifichi che TIM e Telecom Italia vengano considerate delle imprese strategiche. Abbiamo visto che su questo fronte ci sono stati problemi quest'estate anche per quanto riguarda i nostri rapporti con la Francia e l'operazione Fincantieri. Operazione Fincantieri, ne abbiamo parlato lungamente, no? Nelle settimane scorse. Fincantieri che aveva trovato un accordo per acquistare STX, il governo francese si è messo di mezzo, il presidente francese Macron ha parlato di una possibilità di nazionalizzazione. C'è stato un incontro che non è stato un granché chiarificatore tra il ministro dello sviluppo economico Calenda, quello dell'economia Padoan e il ministro francese dell'economia proprio su questo tema, e si è rimandato sostanzialmente tutto a settembre per capire se Fincantieri potrà prendere il controllo oppure se alternativamente si arriverà all'ipotesi francese. L'ipotesi francese vede un controllo, o meglio, non un controllo, un 50% italiano, 50% francese, con la guida dell'azienda che andrebbe agli italiani. Un'ipotesi sulla quale il governo italiano non è d'accordo, ha detto di voler essere estremamente fermo, e una vicenda che inevitabilmente si incrocia anche con la questione Vivendi e quindi con gli interessi francesi in Italia. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade. State ascoltando un programma offerto da Crefozert, e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. E voglio dire all'ascoltatore, visto che ne stiamo parlando, che guardi che io capisco benissimo che c'è una differenza tra il vendere agli stranieri, tra il far passare ad uno straniero una società che produce latte, moda e vestiti, e una rete autostradale, telefonica o un cantiere marino. Ma guardi, è chiarissimo, è talmente chiaro che è anche scritto nelle regole di ogni singolo paese. Il Golden Power esiste apposta per questo, esattamente per capire il momento nel quale c'è un'impresa strategica, che puoi considerare strategica per quello che rappresenta, per esempio una rete telefonica, può essere una rete autostradale, può essere un cantiere navale che ha interessi di difesa, elementi che hanno a che fare con la difesa e quindi te li vuoi tenere per te. Mi è chiarissimo il punto. Le altre questioni invece sono questioni industriali, cioè nel momento nel quale tu ti ritrovi con gran parte, la maggior parte delle imprese della moda, le più potenti e le più forti, che sono francesi, pur mantenendo pezzi di testa italiani, a parte qualcuno evidentemente, quello rappresenta un tema industriale che va affrontato a parte. E in effetti finora abbiamo parlato semplicemente di imprese strategiche, abbiamo parlato di autostrade con la vicenda Bertis, abbiamo parlato dei cantieri francesi che hanno anche elementi che hanno a che fare con la difesa, così come quelli di Fincantieri, e abbiamo parlato di reti telefoniche. Quindi è di quello che stiamo parlando quest'estate, non di altro. Torna da noi Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Ciao Marco, eccoci di nuovo. Ciao Simone, buongiorno. Ormai praticamente un ospite fisso, perché i temi bancari ci ossessionano in questo periodo e non solo in questo periodo. Siamo al 20 d'agosto. Allora Marco, voi oggi avete dedicato l'apertura del Sole 24 Ore a una cosa che riguarda in realtà tutti noi, o quantomeno tutti coloro che hanno un prestito, un mutuo, o che pensano di accendere un mutuo e un prestito, ossia il mitico Euribor, perché entro fine anno deve essere rinnovato e si sta lavorando esattamente su questo. Ci spieghi, ci dai qualche dettaglio in più per orientarci? Sì, abbiamo approfittato della relativa calma agostana per fare il punto su uno dei cantieri che aleggiano sul mercato finanziario, in particolare delle banche, perché è un tema tecnico che però, come accennavi, dalle forti ricadute per tutti, a partire dai titolari di mutui attuali e soprattutto futuri, perché in seno all'EMI, che è l'istituto belga che da sempre governa l'Euribor, è in corso una discussione non facile per riformulare le regole che determinano l'indice. Finora, dalla sua nascita, è sempre stato l'effetto di una serie di rilevazioni quotidiane, cioè un gruppo di banche, prima erano 45, adesso sono 20, e il fatto che siano poche è un problema. Tutte le mattine si telefonano, banalizziamolo un po', raccontandosi a quali tassi prevedono di scambiarsi il denaro. In base a queste comunicazioni viene determinato l'Euribor, che quindi determina tutto ciò che ci è agganciato, e sono 180 trilioni, 180 mila miliardi di prodotti finanziari, a partire da miliardi di mutui. Ora, questo meccanismo da tempo viene considerato inadeguato, perché è lo stesso che stava alla base, che sta tuttora alla base dell'Euribor, oggetto di scandali, ricorderemo, sì, sanzioni, arresti, eccetera, perché ovviamente una comunicazione molto semplice ma anche molto facile da inquinare. Perché è una sorta, anche perché sono solamente 20 attori, insomma. Esatto, no? Solamente 20, e quindi che peraltro devono fornire una stima di quello a quanto che... lo famo l'Euribor, esatto, stamattina. Esatto, è come se, è come se 20 fruttivendoli si telefonassero per determinare il prezzo a cui vendono le pesche piuttosto che le albicocche. Però è così, e pertanto dai regolatori è emersa la richiesta ormai da anni di rivedere le modalità che stanno dietro al tasso. Un primo tentativo è stato formulato nei mesi scorsi, ovvero quello di ancorare l'Euribor a transazioni reali, cioè di fatto renderlo l'effetto dei prestiti che effettivamente già vengono effettuati tra le banche. Ma l'esperimento è fallito, perché in piena inondazione di liquidità da BCE le transazioni sono poche, e quindi il rischio è, se si utilizzasse soltanto il parametro delle transazioni reali, l'indice diventerebbe molto volatile, perché evidentemente oggi si scambia poco, domani si scambia molto, i tassi si muovono, e quindi anche l'Euribor. Certo. Di qui il nuovo tentativo in corso, che entro fine anno deve dare un risultato, perché il nuovo indice entrerà in vigore nel 2020, però parliamo di 180 trilioni, quindi vuol dire che migliaia di pagine di contratti, di schemi andranno rivisti. Il nuovo tentativo è quello di un sistema ibrido, che quindi in parte tenga conto delle transazioni reali, quando esse fossero insufficienti si avvarrebbe anche di comunicazioni preventive tipo quelle attualmente in vigore. In ogni caso, comunque messa così all'aria, più complessa e difficile da gestire, devo dire il vero, Marco. Sì, più che altro un pro e un contro. Il pro è che si uscirebbe dall'autoreferenzialità attuale, per cui comunque ci sarebbe maggior aggancio alla realtà, con tutti evidentemente con tutte le maggiori garanzie in termini di trasparenza. Il contro è la complessità, perché in assenza di una base sufficiente di transazioni si tornerebbe di fatto alle dichiarazioni, quindi si riproporrebbe il problema attuale, ma soprattutto il rischio probabilmente inevitabile, ma da mettere in conto, è in ogni caso una maggior volatilità. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non oggi né domani, perché ripetiamo, fino al 2020 diciamo fino a fine 2019 tutto rimane con me, ma in futuro l'Euribor, così come è stato finora, sarà probabilmente più volatile, quindi o si cambieranno rimesse in discussione alcune abitudini, tasso variabile, tasso fisso, magari si deciderà in modo diverso, oppure si potrebbe fare riferimento ad altri tassi. Il LIBOR, lo scrivevamo proprio oggi, che è al centro di una riforma attuale che va anche in questo caso verso un sistema ibrido, viene considerato ormai in via di pensionamento, quindi la possibilità non tanto remota è che si riformi l'Euribor per in ogni caso pensionarlo, e questo è sicuramente un tema che avrà in futuro la sua rilevanza, anche perché, chiudo, si incrocia con la fine della politica monetaria espansiva di Mario Draghi, perché di qui al 2019 sicuramente i tassi non saranno negativi come sono oggi, e quindi avere un tasso più o meno volatile avrà sicuramente conseguenze più pesanti sulle tasche anzitutto di chi ha mutuo. Allora, uno spunto interessante, lo dico all'ascoltatore che ci scrive, questa non è una trasmissione, per così dire, di consulenza, stiamo semplicemente dando conto di quello che succederà entro il 2019, quindi se ci chiede se conviene fare un mutuo adesso, aspettare, sinceramente, in tutta sincerità, non lo sappiamo. Diciamo che adesso ci limitiamo a dire, i tassi sono talmente bassi che sono talmente bassi, punto e basta. Grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. A chiudere, abbiamo ancora 3 minuti per parlare di Gran Bretagna e di immigrazione. Chiudere dunque con questi dati che sono arrivati dalla Gran Bretagna. Allora, la Brexit non c'è ancora, o meglio è stata votata ma non è in atto, eppure qualche effetto evidentemente inizia a sentirsi, soprattutto in termini di immigrazione. Il dato netto dei primi 3 mesi dell'anno indica un saldo attivo, cioè persone arrivate in Gran Bretagna, emigrate in Gran Bretagna, di 246.000. L'anno prima erano 327.000. Torna da noi anche Nicole degli Innocenti del Sole 24 Ore da Londra. Nicole, ciao, buonasera, bentornata di nuovo. Eccoci. Buonasera. Eccoci qua. Allora, come si diceva, il dato è significativo, almeno viene considerato significativo, perché ci dice che qualcosa si sta già muovendo da quel punto di vista. Sì, ci sono due fattori. Il fatto incertezza che sulle prospettive, perché appunto da mesi, nonostante il referendum sia stato oltre un anno fa, non è stata fatta chiarezza sul futuro dei cittadini europei in Gran Bretagna, su se potranno restare, come potranno restare, cosa dovranno fare. Quindi questo clima di incertezza ha pesato moltissimo e molte persone stanno lasciando la Gran Bretagna, si hanno offerte di lavoro altrove, e ovviamente la Gran Bretagna è diventata meno attraente anche per chi vuole arrivare cercando lavoro. Anche perché ricordiamo che la Gran Bretagna, che prima di Brexit era il paese che cresceva di più in Europa, adesso è diventato invece l'economia più lenta del G7. Oggi sono usciti nuovi dati sul PIL, un più molto debole, più 0,3%, e quindi diciamo che la Gran Bretagna è anche meno attraente da questo punto di vista. Certo. L'economia sta macinando meno, ci sono meno posti di lavoro, e quindi ovviamente sì, non ha più l'effetto calamita di un tempo. Sì, allora, settori già esprimono preoccupazioni, settori come quello delle costruzioni, quello dell'ospitalità e anche in parte settore universitario, perché poi tra l'altro c'è stato anche un calo di studenti dall'Unione Europea, brevemente, Nicole, che siamo quasi in chiusura, di studenti dell'Unione Europea in arrivo in Gran Bretagna, no? Sì, esatto, è un calo generalizzato che sta creando e creerà ancora di più problemi per tutti i settori dell'economia che appunto dipendono moltissimo dai lavoratori dell'Unione Europea, sia nei settori qualificati che non, e appunto come ricordavo gli studenti, c'è stato un calo che avrà un impatto negativo ovviamente sulle università britanniche. Ti ringrazio, grazie a Nicole degli Innocenti del Sole 24 Ore da Londra, grazie anche a Roberta Frisani in regia, Mauro Del Corno in assistenza in redazione, un grazie a voi tutti per l'ascolto e per la partecipazione via SMS e via WhatsApp, ci si risente domani dopo il GR delle 17. Radio 24, libera la voglia di fare.